Ci sono, buongiorno. Questo è quello che mi piace. È una storia bella di suoni. No, perché è sempre difficile descrivere che cos'è, perché io non lo so che cos'è. È un teatro, ecco cos'è. Benvenuti nel teatro elettronico. Senza impegno, però mi piace. Tu serve una composizione. Tu c'è il senza impegno. Tu arrivederci. Dove vai? Tu c'è composizione. Tu senza impegno. Tu serve una composizione problematica. Tu è una composizione tu senza impegno, però mi piace. Tu serve una composizione problematica. Tu c'è il senza impegno. Tu arrivederci. Dove vai? Tu è una composizione tu senza impegno. Serve una composizione problematica. Allora, adesso cosa c'è? Aspetta, che devo guardare qua cosa mi sono preparato. C'è un brano molto, ma molto lento. Non so come si chiama, perché poi i titoli nascono successivamente. E quindi a volte io sento l'esigenza di suonare il brano, anche se il titolo ancora non è nell'aria. Pulsano già a prescindere dal titolo che il brano avrà. La rima è brutta, però un po' da deficiente. qui categoria. Serie. Dell'arte. Nell'angolo tarantella di quest'oggi, è un angolo molto ampio, c'è una sorpresa di Mr. Dendo, interessante, molto zompettosa. Sono molto contento perché mi piace molto la tarantella e quando ci sono questi brani da suonare la mia anima sta proprio in pace. Quello che mi piace. Eccoci qua, tutti in piazza, a danzare. Sulle mani forza un po'. c'è Gigi D'Agostino con voi a teatro. Festa. Quello che mi piace, il teatro elettronico. Strane connessioni sul palcoscenico del teatro elettronico. Suoni molto cupi per riflessioni solari. Molto serenamente ci fermiamo un attimo. C'è un modo di dire che è molto simpatico, interessante e anche vero. L'amico è come il culo, cioè che si scopre quando... No, aspetta. Amici! Conti di tatatini! Porgetemi le orecchie vostre! Represent the hip hop. Represent, yeah, yeah. Represent the hip hop. Represent, represent the hip hop. Represent, yeah, yeah. Represent the hip hop. Represent, represent the hip hop. Represent, yeah, yeah. Represent the hip hop. Uno dei passi che mi piace il passo, però sono passi, cioè un passo, no, perché a botte di passi fai... Ogni passo, cioè un passo che si aggiunge all'altro, forma dei passi. E quindi i passi che ci piacciono molto quindi i passi che ci piacciono molto, cioè non solo i passi. La stanza non è stata profumata. Non so, Altezza. E perché non sono state abbassate le luci per creare un'atmosfera romantica e misteriosa? Vostra Altezza non ha dato mai questi ordini. Devo darvi sempre l'imbeccata. Non ho altro da pensare, che mi piace. Rock your body, shake it, shake it, shake it, shake it.

Luigi D'Agostino. Qui sul palcoscenico del teatro elettronico arrivano suoni da tutto il mondo per raccontarci una storia. D'Agostino, quello che mi piace. Ci portano. Basta che stiamo insieme.

I latini erano soliti dire nomen omen, ovvero il nome e il destino. Capita a volte infatti che nel nome sia scritto il proprio destino o almeno il proprio mestiere. Nei casi seguenti è sicuramente vero, ho fatto una ricerca così su internet e ho trovato un elenco di nomi curioso, dove per l'appunto all'interno di questo nome diciamo che si cela, ma non troppo, il destino o il mestiere della persona. Per esempio una dottoressa dentista che si chiama appunto Elena Tartaro, che veterinario che dà certezza, dà garanzia, si chiama Adriano Zecca, famoso autista Guido di Rado, un negozio di lista nozze della vedova, un simpaticissimo ginecologo, il dottor Frugone. Due dottori seri e determinati, il dottor Moribondo e il dottor Maisano. Un grandissimo psichiatra, il dottor Franco Recupero. C'è anche un otorino, il dottor Santo Muto. Play me, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enem chi avesse bisogno di un oculista c'è il dottor Quercio. A proposito di fotografia, se c'è qualche appassionato e volesse qualche consiglio, c'è il fotografo Marcello Mosso. Parrucchiere ad Alberto Pochi in Testa, che è più o meno nelle mie condizioni. Per chi avesse problemi con l'auto, c'è una carrozzeria seria, leale, onesta. È la carrozzeria dei fratelli Cofano. Questi erano solo alcuni dei nomi delle persone, cioè dei professionisti, però ci sono anche i nomi delle attività. C'è un ristorante che si chiama Pensavo Peggio. accendersi, deve avere un po' di nero mischiato insieme. Liberati dal pensiero e percorri il sentiero. Piace il teatro elettronico. Il teatro elettronico. Autostrada, sono appena uscito dal locale, ho suonato qui in Tirolo, che non è quello che sta sopra la bocca dello stomaco, e sono in Austria. La serata è andata benissimo, il locale è molto molto serio, la gente veramente tosta, aveva voglia di divertirsi, soltanto che c'era una cazzo di puzza di fumo, perché qui in Austria non c'è ancora la legge, quella che abbiamo noi in Italia, meravigliosa contro il fumo, e quindi nei luoghi pubblichi, perché i luoghi sono pubblichi, no? E si può fumare, e fumano come dei tossici, come eravamo noi prima che uscisse quella legge.

amici, chissà dove sono finiti. Viaggio nei ricordi, traccio nel passato, l'amore che c'è stato, non starci a sola. Quello che mi piace. Sul palcoscenico del teatro elettronico arrivano suoni da tutto il mondo per raccontarci una storia. (Susurra) Sì, è un teatro senza programma, è uno spettacolo pieno di disconnessioni. Comunque chi vuole seguire in qualche modo un filo illogico può farlo. Su M2O. Sei qui in un teatro confuso. Un teatro molto confuso, ma pieno di musica, pieno di voglia di ballare, di vivere. D'Agostino, con voi a teatro e i suoni ci raccontano. M2O. Scelgono un DJ internazionale e lo fanno suonare.